Estate, abbiocco, viaggio in treno in solitaria, voglia di lettura ma palpebre pesanti. Quanto sarebbe bello se qualcun mi leggesse una storia. Quanto sarebbe bello se qualcun mi leggesse una zin. Questo progetto nasce dal desiderio di farci coccolare dalla voce di un'altra persona attraverso pagine di testi che reputiamo interessanti e per renderli accessibili a chiunque non si ritrova a proprio agio con la lettura per questioni di tempo, concentrazione, facilità. Inizialmente pensavamo ad una cosa semplice, pura lettura, ben scandita di pagine e pagine e pagine. Ma fortunatamente per noi, ma probabilmente anche per chi ascolterà, ci siamo prese bene e alle nostre voci più o meno monotone abbiamo aggiunto stralci delle hit musicali del momento. E come farci sfuggire l'occasione per inscenare un dialogo tratto da una pièce teatrale a più voci? I testi che proponiamo in versione audio, seppur non sempre rispecchiano i nostri pensieri in tutte le loro sfumature, trattano tematiche per noi fondamentali e affrontano questioni su cui non smettiamo mai di confrontarci, rimettendoci in gioco e discutendone. Perché audio zin? Al tempo che fu, il collegamento tra zin, ovvero opuscolo all'inglese, e la parola zinne, ovvero seni in romano, è stato automatico. E siccome a noi ci piacciono anche le zinne in tutte le loro forme, ci è piaciuto il gioco di parole.